fare film. Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qua in questa serata con lo sposo Chicco e con Leo. Di dove siete, ragazzi? Vicini ai microfoni, mi raccomando. Noi siamo di Verona. Noi siamo di Verona, un paese in realtà in provincia di Verona. Ok, noi questa sera, che sono quasi l'una e un quarto di notte, di questa sabato notte, ormai domenica mattina, ci troviamo qua. Non me ne ero neanche accorto. Non ti eri neanche accorto, ecco, vedi. Ah, ma è sabato. Ormai è domenica in verità. E ci troviamo nella Risto Radio Convento, qua al convento di Lonato, okay, nel confessionale di Grande Sorella. Io sono Nadia e ho l'immenso piacere di intervistarvi per capire cosa vi ha portato fin qua da noi. Beh, ma a parte che... Vicino al microfono, mi raccomando. Per me è la prima volta che parlo ad un microfono e mi fa quasi impressione sentire la sua voce, che è così radiofonica. Oh. Radiofonica. Beh, ma ascoltate molto, anche la vostra. Molto radiofonica. Diciamo che questo qua è una parte molto piacevole della serata. Come vabbè, voi l'avete vissuta la serata, quindi avete visto che siamo... Abbiamo talmente tante offerte che dire che faccio solo questo lavoro sarebbe troppo. Fa parte, diciamo, del pacchetto. Beh, noi in realtà ci ritroviamo un po' in questa location, un po' così. In realtà per noi è un po' più... È strano perché per noi è di solito siamo dalla parte opposta, quindi siamo tipo in macchina che ascoltiamo questa parte della conversazione. E adesso è un po'... Esatto, però fa molto strano. Ma non è questo il bello della vita, no? A volte anche mettersi dall'altro lato. Molto bello. E io stasera vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di te, visto che posso fare questo piccolo spoiler, perché i nostri amici ovviamente non ti vedono, no. Ma tu stasera sei venuto a festeggiare qualcosa di speciale. Allora, e quindi devo parlare da solo. Esatto. Allora, se vuoi Leo ti aiuta. Leo è celibato. Esatto. Se lui va, io sono molto contento che mi dia una mano a parlare di questa cosa. In realtà, guarda, io sono stranito un po' da questa cosa, quindi sono in una fase un po'... Sei stranito dal fatto che ti sposi? No. Sei stranito dal fatto che stai festeggiando l'addio al celibato? Bravissima, e che mi ritrovo un po' in questa situazione qua, quindi dal... Perché stamattina li abbiamo prelevato dalla palestra, gli abbiamo creato un po' un ambiente un po' anomalo. Ecco, vabbè, chi ci ascolta non lo vede, ma qua fuori abbiamo gli amici dello sposo che lo stanno distraendo. Stanno facendo dei gesti intraducibili, diciamo. Stiamo cercando di essere abbastanza sobri e tranquilli nel parlare, ma in realtà abbiamo gli amici di fronte. Comunque, che ci danno un po'. Comunque, io sono qua quattro volte, questa è la quarta volta. Ok. Ma non mi ricordo di aver visto questa stanza. Ma perché vi spiego, questa stanza qua di giorno non esiste. La tiriamo fuori e la facciamo solo per quegli ospiti speciali, di cui io vedo che hanno la stoffa per andare in onda. Noi siamo 10 euro, ci hanno chiesto 10 euro per venire qua a parlare. Cari ascoltatori, di chi vi fidate? Di me o di loro? Siamo super contenti di essere stati scelti per queste extra. L'onore è mio. Okay. Facciamo così, visto che ti stai per sposare, visto che questo è un grande passo per la tua vita, ti chiedo solo con un'unica parola di descrivere tua futura moglie. Attenzione, perché di parola ne è una, un solo aggettivo. Devo descrivere con un aggettivo ciò che lei è per te. Ah, ok. Non devi pensarci troppo, però è la prima cosa che ti viene in mente. Esatto. Allora. No, allora è già una parola. No, scusa, sarò banale, però. Ok. Però speciale. Speciale. Beh. Sì. Beh, direi che è pronto per sposarsi. Scusami, Leo, tu sei il testimone? No, sei un amico. No, lui è un amico, è un amico di 20 anni. Sì. Un amico di vecchia età. Quindi conta, abbiamo una 35. Ah, ok. Aveva il ciuffo. Ok. No, ecco, per chi ovviamente non ci vede, diciamo, allora è cambiato tantissimo negli anni. Ma cos'è successo? Scusa, per questo cambiamento così brusco. Avevo i capelli ed ero simpatico, quindi adesso sono pelato. Qualcosa deve essere successo. Ho conosciuto la sua futura moglie. Ah, ok. No, in realtà non è tantissimi anni che l'ho conosciuta. Da quanto state insieme? No, allora, stiamo insieme da 5 anni. Ok. Però con Leo mi conosco da molti di più, quindi da quando ne avevamo 12-13 da 12-13 anni, più di 20 anni. Ok, più di 20 anni. Bene, qual è la data del vostro matrimonio? Il matrimonio sarà il 26 agosto. Ok. E la data del vostro anniversario? Quale anniversario? Come quale? Scusa, se devo... No, di quando vi siete conosciuti o quando vi siete messi insieme? Allora, no, in realtà ci siamo conosciuti 9 anni fa. Ok, ok. Però non è scattata subito la scintilla. Allora, non... No, piano. No, non subito. Non la sa. Vabbè che sono 1:20 nel frattempo. In realtà gliel'abbiamo ricordato tra voi. No, allora, in realtà è stata una cosa un po'... Non so seguirsi... di eventi. Ok, nel senso che prima sei uscito con la sua amica, no, poi no. Prima sei uscito col gruppo delle amiche. In realtà l'avevo prima, sì, lei prima lei frequentava altre persone in realtà. Altre persone. Tu eri il quarto, quinto, sesto. Nel senso che comunque avevo una cerca d'amici diversa dalla mia. Facciamo così, visto che siamo in chiusura. Dici il giorno dell'anniversario, il giorno in cui l'hai conosciuta, oppure il giorno in cui avete deciso di mettervi insieme. No, è comunque, vabbè, 2 agosto. 2 agosto. No, 2 giugno. 2 giugno. Meno male che ce l'ho, che suggerisce. Ok. Però ascolta, una sola risposta, quella che deve essere 2 giugno. No, aspetta. Quando è il momento? Il 26 giugno e il 26 di agosto. 26 agosto. Qual è la risposta che devi assolutamente dare? Sì. Ok. Io direi che ci siamo pronti. Ok. Andiamo in chiusura, è stato un immenso piacere grazie avervi qua. Grazie a te. Grazie. E ti auguro tutto il meglio, assolutamente. È un buon lavoro questo, eh. Dici? Sì, veramente. Che bellissimo complimento, ti ringrazio molto. Grazie. Amici, rimanete con noi e tanti auguri al nostro amico che Bella. Sta per sposarsi.